Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Caos in Campidoglio dopo le perquisizioni, l'arresto per corruzione di Marra, braccio destro del sindaco Raggi. Un tecnico lo sostituiremo, dicono i 5 Stelle. Intanto a Milano Sala si autosospende da sindaco, indagato come ex commissario di Expo per la retrodatazione di un documento, fiducia dal PD. Sospesa l'evacuazione di Aleppo dopo che un convoglio di civili in fuga è stato attaccato dai ribelli. Rischio che Idlib faccia la stessa fine della città, dice De Mistura. Monte dei Paschi, parte l'ultimo tentativo per l'aumento di capitale da 5 miliardi approvato ieri, tempo fino a giovedì. Paletti meno stringenti per l'adesione dei risparmiatori alla conversione dei bond. PM10 oltre i limiti. Prime multe a Vicenza per i negozianti che tengono le porte aperte. I commercianti all'attacco, serve a poco e ci penalizza. Scioperate e noi vi ritiriamo l'aumento. Il Comune di Firenze contro i vigili urbani che incroceranno le braccia nella giornata di domani. Il calcio, fine settimana all'insegna del big match di Torino in campo Juve-Roma, 4 punti tra le due. I giallorossi puntano a riaprire il campionato, i bianconeri a chiuderlo. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, effettogiorno@radio24.it invece se ci volete scrivere. In apertura dunque le vicende romane e l'arresto di quello che è considerato il braccio destro del sindaco di Roma, Virginia Raggi. Facciamo il punto in diretta dal Campidoglio con il nostro Andrea Viali. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Hanno da poco lasciato il Campidoglio la PM e i carabinieri arrivati stamattina in comune per perquisire proprio l'ufficio di Raffaele Marra, evidentemente alla ricerca di documenti utili all'inchiesta che ha portato al suo arresto. Marra, lo ricordavi, è un fedelissimo della sindaca Virginia Raggi, è il capo in questo momento dell'ufficio del personale del Comune di Roma, ma in passato era stato anche una figura chiave della giunta Alemanno e l'episodio di corruzione che gli viene contestato si riferisce proprio al periodo in cui sotto Alemanno era responsabile del Dipartimento delle Politiche Abitative del Comune. L'accusa è quello di aver intascato una tangente per l'acquisto di un appartamento dell'ente Enasarco dal noto costruttore ed immobiliarista Sergio Scarpellini, anche lui arrestato stamattina. L'inchiesta ruota proprio attorno a questo imprenditore che, secondo la procura, avrebbe corrotto amministratori pubblici per trarre benefici per le sue società, e questo proprio attraverso la compravendita di case. Ora naturalmente in Campidoglio l'attesa è tutta legata a quelle che saranno le inevitabili ricadute politiche di questa vicenda, ricadute sulla giunta Raggi. Per ora la sindaca pentastellata non parla, è chiusa nel suo ufficio, ma in passato più volte aveva difeso Marra anche dagli attacchi arrivati dallo stesso Movimento 5 Stelle. E di certo questi sono giorni difficili per la prima cittadina. Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, c'erano state anche le dimissioni dell'assessore all'ambiente Paola Muraro, anche lei indagata, e poi ieri altre perquisizioni per l'inchiesta legata ad una serie di nomine fatte dal Campidoglio, sotto la sua gestione, una vicenda anche questa nella quale era tornato il nome di Raffaele Marra. Simone. E grazie Andrea Viali per questo aggiornamento. Su questa vicenda e sull'inchiesta torneremo più avanti, perché la vicenda era stata tirata fuori dal settimanale L'Espresso e parleremo col giornalista che ne ha scritto. Intanto andiamo ad un'altra vicenda che riguarda invece Milano e riguarda invece l'indagine sul sindaco Beppe Sala, che si è autosospeso dalla carica. Sara Monaci del Sole 24 Ore, ciao Sara, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, su cosa verte l'inchiesta, posto che sappiamo che questa mattina Sala è andato in prefettura per formalizzare l'autosospensione annunciata nella notte? Su cosa verte l'inchiesta? Allora, l'inchiesta in realtà è ancora in modo dettagliato da capire. Si tratta comunque di un'inchiesta di 2 anni fa sulla piastra, cioè la cosiddetta piastra dei servizi, l'appalto più grande dell'Expo, gara d'appalto da 272 milioni, poi appaltata con uno sconto del 40%. Questi fatti erano già emersi in un'inchiesta del 2014, inchiesta che però la procura avrebbe voluto archiviare, salvo poi un'interruzione del GIP che ha deciso di non archiviare, di respingere la richiesta della stessa procura, e una riapertura da parte della procura generale della stessa inchiesta. Quindi siamo anche all'interno di un quadro in cui gli stessi inquirenti non sono d'accordo fra loro. Detto questo, oggi si ipotizza per Giuseppe Sala il falso ideologico, che sarebbe stato commesso quando era amministratore delegato di Expo, poi divenendone anche commissario unico, quindi non riguarda la sua attività di amministratore. Certo è che si tratta di un duro colpo per l'amministrazione comunale, perché Sala evidentemente vuole fugare tutti i dubbi al suo carico e si è per questo autosospeso. Ma anche qui l'autosospensione dobbiamo capire tecnicamente in cosa consisterà. Si tratta di un evento pionieristico, perché non è una dimissione, non è nemmeno una prosecuzione, quindi siamo in una fase di limbo in cui ancora dobbiamo capire quali saranno le conseguenze. Oggi sarà lui stesso a spiegarlo in una conferenza stampa, questa mattina si è visto con il prefetto. L'autosospensione serve proprio, così dicono nel suo staff, per capire meglio quali sono i contorni della vicenda, se le accuse a suo carico sono particolarmente gravi da imporre una dimissione, oppure se è un fatto tecnico su cui si può anche, diciamo, se non sorvolare, dare dei chiarimenti e proseguire l'attività amministrativa. Ti ringrazio, grazie a Sara Monaci per questo aggiornamento. Ovviamente ci sono le reazioni politiche. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Partiamo, Simone, allora dalle vicende del Campidoglio e dall'inevitabile shock. Non si può parlare altrimenti nel Movimento 5 Stelle. La Raggi dovrebbe parlare tra circa 10 minuti in una conferenza stampa che è stata convocata pochi istanti fa. Grillo, che è a Roma da circa 2 giorni, invece per il momento tace. La notizia dell'arresto di Marra è arrivata proprio nei minuti in cui deputati e senatori stavano partendo per Siena, dove era previsto un flash mob sul caso Monte dei Paschi di Siena, iniziativa che è stata annullata, ed è lì che Roberto Fico, tra i più influenti del movimento, ha rilasciato il primo commento. Sentiamo le sue parole. Adesso magari ci riuniamo tutti quanti e tireremo fuori una linea dal gruppo senza alcun problema. Poi chi ha fatto, chi ha sbagliato, sicuramente deve, tipo Marra è stato arrestato, bene così, deve fare il suo corso magistratura, carabinieri, giusto così. Certo, è una cosa grave, non c'è ombra di dubbio, gravissimo. Un Movimento 5 Stelle dunque che non nasconde la gravità della situazione, inevitabili però le ripercussioni politiche. Sui grillini è un tiro incrociato allora da maggioranza ed opposizioni. Grillo è politicamente responsabile, dice dal PD Orfini. A Roma spiega: hanno riciclato il peggio, il Movimento 5 Stelle è inadeguato a governare, dice Toti. Forza Italia: Raggi lasci e si torni ad elezioni, dice Salvini, che commenta poi anche il caso Sala. La sua autosospensione non esiste, dice il leader della Lega, se è pulito faccia il sindaco, se no si dimetta. Piena fiducia nel sindaco Sala, che ha fatto un gesto di grande e rara sensibilità, commenta poi il ministro delle politiche agricole Martina, che, lo ricordiamo, aveva la delega ad Expo. È tutto, linea allo studio. E grazie dunque a Vincenzo Miglietta anche per questo aggiornamento sul fronte politico. Come si diceva, torneremo più avanti su queste vicende, in particolare sulla vicenda che riguarda Marra. Adesso andiamo all'estero e ci spostiamo ad Aleppo, la Siria, la tregua che sembra di nuovo saltata. Laura Bettini, ciao, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Io comincerei con il farvi sentire cosa ha dichiarato questa mattina ai nostri microfoni a 24 mattino Staffan de Mistura, che è l'inviato speciale dell'ONU per la Siria. Sentiamo. L'accordo tra russi e turchi, sostenuto anche da noi, nel cercare di evitare l'ultima terribile, inutile e atroce battaglia e distruzione di quello che rimane di Aleppo, sta funzionando. Sta funzionando. L'evacuazione ha avuto inizio, qualche migliaio di persone tra civili e guerriglieri è effettivamente uscito dall'inferno di Aleppo Est, lo dicono un po' tutte le fonti. Poi però, come anticipavi in tarda mattinata, la televisione panaraba Al Jazeera ha detto che le operazioni di evacuazione erano state sospese a causa di una ripresa degli scontri. Loro hanno detto per colpa delle milizie sciite iraniane alleate di Assad. Poco dopo la stessa notizia è stata data dalla televisione di Stato di Damasco, ma la colpa questa volta è stata attribuita ai ribelli nei confronti del governo di Damasco. Poi è arrivata pochi istanti fa invece una totale smentita di questa sospensione, perché i media russi dicono che le operazioni di evacuazione sono state concluse, quindi portate a compimento. Insomma, non è ancora chiaro cos'è accaduto nelle ultime ore ad Aleppo Est, se davvero tutti sono stati evacuati o solo una parte sono stati evacuati, magari i civili sì, ma i miliziani ancora no. Vi voglio però riportare in conclusione a quello che ha detto e che abbiamo sentito dire adesso da De Mistura. Questa evacuazione, che in parte comunque c'è stata, si deve a un accordo tra russi e turchi con il sostegno dell'ONU. Ora Mosca sta lavorando con Ankara a un incontro tra il governo siriano di Assad e le forze di opposizione, quindi sta già preparando la fase successiva. La Merkel, la cancelliera tedesca, ieri, dopo aver incontrato il sindaco di Aleppo al vertice europeo di Bruxelles, non solo ha denunciato le atrocità commesse da Assad e dai russi, di cui abbiamo letto sui giornali in queste ore, ma ha anche parlato di vergogna, di fallimento politico e fallimento del Consiglio ONU di sicurezza. E direi che questo è un elemento che davvero andrà preso in considerazione. E ti ringrazio. Grazie a Laura Bettini. Un'altra notizia che arriva dall'estero di questa mattina: la Procura federale tedesca ha aperto indagini sul tentato attacco ad un mercatino di Natale a Ludwigshafen da parte di un dodicenne tedesco che, secondo il settimanale Focus, agiva per conto dell'ISIS. La Procura federale indaga appunto sul ritrovamento di una bomba a chiodi nell'area. Siamo alle vicende finanziarie di queste ore. Da una parte Monte dei Paschi, dall'altra Mediaset. Deborah Rosciani, ciao, buongiorno. Buongiorno, da dove vuoi cominciare? Iniziamo da MPS, va oggi. Cominciamo da Monte dei Paschi. Allora, ieri sera intorno a mezzanotte è arrivato il via libera della Consob, che ha autorizzato la pubblicazione del supplemento del prospetto informativo in base al quale la banca appunto dà i dettagli su come deve essere portata avanti l'offerta volontaria di conversione dei bond subordinati, almeno quelli che sono ancora in mano ai piccoli risparmiatori, 40.000. L'operazione è già partita alle 9 di questa mattina e c'è tempo per aderire alla conversione volontaria fino alle 14 del 21 dicembre. Poi ieri, ricordiamo, Monte dei Paschi ha dato il via libera appunto complessiva tutta l'operazione di ricapitalizzazione da 5 miliardi di euro, operazione che deve essere conclusa entro il 31 dicembre, termine tassativo imposto, come è noto, dalla Banca Centrale Europea. In caso di insuccesso ci sarà la nazionalizzazione della banca, ma la banca appunto prova a far tutto per evitare questo scenario, e questo è un punto. Il titolo oggi è appena positivo a Piazza Affari in questo momento, anzi sta azzerando tutto, guadagna lo 0,24%, era partito un po' meglio. L'altro fronte Mediaset, il gruppo è in ribasso dell'1,18%. Non ci sono oggi notizie particolari relative alla scalata ostile che è in corso da parte dei francesi di Vivendi. Si sa solo che ieri il gruppo transalpino ha formalizzato alla Consob la quota del 20% appunto di proprietà in Mediaset, quota detenuta, è stato detto, appunto in diretta proprietà. La speculazione invece è particolarmente accesa su Telecom Italia, l'altro fronte, perché appunto, secondo molte indiscrezioni di stampa, per contrastare il blitz di Vivendi in Mediaset, Fininvest potrebbe invece provare a comprare il 10% di Telecom, di cui Vivendi è primo azionista con circa il 24%. E poi c'è stata l'ultima novità nella vicenda intervenuta la Gcom, che ha ricordato che un'eventuale concentrazione del controllo di Mediaset e Telecom in capo allo stesso soggetto Vivendi potrebbe essere però vietato in Italia. Queste le notizie del giorno. Simone, Telecom guadagna circa 2 punti, è tutto. Ti ringrazio, grazie dunque a Deborah Rosciani. Restiamo proprio sul fronte Mediaset, che naturalmente accende la politica anche. La scalata di Vivendi a Mediaset è un'operazione di mercato, ma il governo sarà attento e vigile. Lo dice il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. Seguire con vigile attenzione la vicenda, perché sappiamo che sia le reti di telecomunicazione che le grandi strutture di informazione sono in un paese molto, molto importanti. Nonostante l'attenzione alle mosse di Vivendi, Gentiloni non ha parlato del dossier con il presidente francese Hollande al termine del Consiglio europeo. No, non ne ho parlato con Hollande perché non credo che il finanziere bretone sia un commid'età francese, anzi tutt'altro. Uno stop alla scalata dei francesi a Mediaset arriva dall'autorità delle comunicazioni. Vivendi, azionista di maggioranza di Telecom Italia, dice l'autority, non può sommare il controllo di Mediaset a quello della società di TLC. Ci sarebbe infatti un rischio di concentrazione. E Maurizio Gasparri, ex ministro delle comunicazioni, ricorda che in base alla legge che porta il suo nome, la scalata non può proseguire. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Cambiamo decisamente argomento e passiamo al calcio. La grande attesa per Juve-Roma di domani sera, Carlo Genta, ciao. Ciao Simone, buongiorno a tutti. 17ª giornata che presenta appunto questo fiore all'occhiello, questa sfida serale tra Juventus e Roma per tenere vivo il campionato, con la Roma che sta facendo di tutto per recuperare Salah. Spalletti sta facendo conferenza stampa, chissà che non escano notizie da lì e niente, la Juventus ovviamente si schiererà in formazione tipo con il probabile ritorno dal primo minuto di Pablo Dybala, che non è una notizia secondaria in coppia con Higuain. Però domani è anche il giorno di un'altra partita estremamente interessante, si gioca alle 18 Milan-Atalanta, con l'Atalanta reduce da due sconfitte, il Milan che come sappiamo ha perso proprio all'Olimpico con la Roma, ed è un Milan che vuole rimanere agganciato al treno delle squadre che contano, in attesa di mercati, closing e amenità assortite. Sempre domani alle 15 si gioca Empoli-Cagliari, che invece è una sfida delicatissima per quanto riguarda la salvezza. Quindi sarà un grande sabato di calcio, ovviamente con l'attesa per le 20:45 e con Juventus-Roma allo Juventus Stadium. Allora Carlo, grazie. Ne parlerete ovviamente tutti convocati a partire dalle 14. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. Il nostro giro per l'Italia che ci porterà tra l'altro ad Abano Terme, dove è in corso una protesta da tre mesi secchi per l'ipotesi di trasferimento di una serie di profughi in un ex caserma, e ne parleremo con il presidente degli albergatori locale, perché anche loro sono impegnati in questa cosa. E poi ci occuperemo di questa vicenda del comune di Firenze, la quale vi dicevamo anche nei titoli. Comune di Firenze che ha minacciato i vigili, che devono scioperare domani. I vigili urbani ha detto: voi scioperate e noi lo stipendio non ve lo aumentiamo. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato ampiamente del caso in Campidoglio e l'arresto per corruzione di Marra, considerato un fedelissimo di Virginia Raggi. Abbiamo parlato anche dell'autosospensione del sindaco di Milano Sala, indagato per vicende che riguardano l'Expo. Abbiamo parlato di Aleppo, di Monte dei Paschi e abbiamo parlato di Juve-Roma. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo dal Veneto e da Abano Terme, per essere esatti. E la storia è stata raccontata più volte in queste settimane. Oggi ci ritorna La Stampa con una bella pagina, un bel racconto di Nicolò Zancan, che parla di questo presidio nel quale 130 persone si alternano giorno e notte, fanno sostanzialmente i turni di guardia davanti ad una caserma, la caserma abbandonata Primo Rock di Abano Terme, dove è previsto il trasferimento di profughi e dove evidentemente i cittadini, una parte dei cittadini, non li vuole. Qual è il tema? Il tema è una località turistica a Abano Terme, una località turistica molto importante, e il punto è esattamente questo. Siamo con Emanuele Boaretto, il presidente di Federalberghi Terme di Abano e Montegrotto. Buongiorno Boaretto, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, i suoi concittadini, per così dire, protestano ormai da giorni, da tre mesi, da 93 giorni addirittura. Voi come la vedete questa cosa? Ma noi questa cosa la vediamo in maniera molto tranquilla, perché abbiamo avuto già assicurazioni che un'occupazione della caserma Primo Rocco non potrà più avvenire, in quanto essendo una località turistica sia a livello di Roma che a livello, diciamo così, provinciale con la prefettura, abbiamo avuto la certezza che questi locali non saranno più adoperati per risiedere i richiedenti asilo che arrivano qui in Italia. Quindi noi siamo tranquilli, abbiamo una stagione turistica che si sta concludendo con i migliori auspici e non abbiamo presenza di persone nel nostro territorio, questi richiedenti asilo, che possono arrecare disturbo o comunque modificare l'immagine serena di una località turistica e termale come quella di Abano e Montegrotto, e quindi siamo ragionevolmente sereni. Ma secondo lei un richiedente asilo, Boaretto, modifica così drammaticamente l'immagine? Adesso è una domanda senza cattiveria, diciamo. Mi fa piacere che lei faccia questa domanda. Quando, diciamo, i richiedenti asilo hanno un numero contenuto e sono soprattutto, diciamo così, registrati, conosciuti, non possono portare disturbo più di tanto. Quello che si paventava invece al primo rock era un numero piuttosto elevato e questo avrebbe sicuramente creato molti problemi a una località come Abano e Montegrotto. Cioè il rischio che vedevate, mi sembra di aver capito Boretto, che si creasse una situazione come quella della quale abbiamo trattato di Cona, e là siamo sempre in Veneto, nel veneziano nella fattispecie, dove si è partiti con un certo numero di persone all'interno di una caserma, alla fine sono arrivati, ci sono centinaia di persone ammassate in una situazione sostanzialmente incontrollabile, no? Assolutamente sì. Tenga presente che noi nel Veneto abbiamo avuto una situazione molto simile ad Eraclea nel 2015 ed è stata una cosa che ci ha insegnato che nelle località turistiche questa cosa non può essere diciamo così sistemata, voglio dire, non può trovare posto in una località turistica un così alto numero di richiedenti asilo. Tra l'altro, Boretto, c'era stata, se non ricordo male, anche un po' di polemica nei mesi scorsi perché un albergatore proprio aveva offerto la sua struttura per l'accoglienza dei profughi, forse a Montegrotto, vado errato, l'hotel Michelangelo, mi ricordo male. A tal proposito, sì, non ricordo male, però questa cosa qui l'abbiamo scongiurata già all'inizio. Noi hanno preso proprio il nostro sindaco effettivamente che cosa ha optato per lo SPRAR, praticamente un numero molto limitato di richiedenti asilo che sono già di seconda fascia, cioè coloro che sono stati riconosciuti con diritto ad ottenere l'asilo politico in Italia e quindi sono persone che vengono controllate e possono anche trovare lavoro. Questa cosa a Montegrotto scongiurerà nell'immediato, nel futuro, a breve e a medio termine, sicuramente altri arrivi di altre persone. Quelli per intenderci, quelli imposti dalla prefettura, per intenderci in sostanza, chiarissimo. Esatto, quelli che vengono imposti dalla prefettura, perché l'accordo diretto tra stati e prefettura esula dalle capacità di un sindaco di tenere sotto controllo, di organizzare. Certo, certo, sì, sì, no, ma infatti di questo non abbiamo parlato spesso. Io la ringrazio, grazie Emanuele Boretto, presidente dei Federalberghi Terme, Abano, Montegrotto, e ora a Firenze con Federico Gianassi, assessore, organizzazione personale, sicurezza urbana e polizia municipale del comune. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, domani i vigili scioperano e voi gli avete detto, se voi scioperate, niente aumento, ho capito bene? Beh, è una sintesi, però è piuttosto fedele perché in realtà in molti mesi di relazioni e trattative abbiamo presentato... Mi scusi Gianassi, la interrompo un attimo e chiedo se possiamo andare a sentire la televisione perché c'è in questo momento la conferenza stampa della sindaca di Roma, Virginia Raggi. Vediamo un attimo se siamo in grado di far sentire qualche passaggio. Chiedo a Roberta Frisani in regia se ce l'abbiamo da Sky. Via! Marra era già un dirigente di questa amministrazione e noi ci siamo fidati. Probabilmente abbiamo sbagliato e di questo mi dispiace. Mi dispiace nei confronti dei cittadini romani, mi dispiace nei confronti del Movimento 5 Stelle e di Beppe Grillo, che aveva sollevato qualche perplessità. Voglio evidenziare che il dottor Marra non è un esponente politico di questa giunta, ma un dirigente dell'amministrazione da 10 anni. Faremo tutto quanto nelle nostre possibilità e per quanto di nostra competenza per fare luce, collaborando pienamente con la magistratura. A partire dalle nomine, per quanto abbiamo sempre chiesto il supporto dell'avvocatura e dell'ANAC. Sottolineo peraltro che già nel 2013 uno dei primi atti che abbiamo depositato io e gli altri consiglieri del Movimento 5 Stelle è stata una mozione contro gli affitti d'oro di Scarpellini. Questo ha consentito di far risparmiare milioni di euro ai cittadini romani. Di certo procederemo immediatamente con la sostituzione del capo del Dipartimento del Personale. Voglio essere chiara. L'amministrazione va avanti. Il dottor Marra, come ho sempre detto, è uno dei 23.000 dipendenti capitolini e non un esponente politico. Il mio braccio destro sono i cittadini romani. Ed è per loro che ogni giorno lavoriamo senza sosta. Andiamo avanti con serenità. Grazie. Così dunque la conferenza stampa di Virginia Raggi, sindaco di Roma. Chiedo scusa a Federico Gianassi se l'ho fatto attendere, ma essendo uno che sta nella politica comunque probabilmente era anche interessato a quello che sta succedendo a Roma. Allora Gianassi, siamo qua con i vigili urbani di Firenze che domani, come si diceva, protestano. Ci dice un po', gli togliete l'aumento, ma come fate tecnicamente? No, allora, innanzitutto sì, ho lasciato molto volentieri spazio alla sindaca Raggi. I nostri problemi per fortuna sono molto diversi, sono più di tipo sindacale in relazione alla polizia municipale. Ma no, il tema è molto semplice. Noi abbiamo detto da mesi che abbiamo un'esigenza, che è nell'interesse dei fiorentini, più polizia municipale presente in città per svolgere funzioni che servono alla nostra città, sicurezza urbana, controllo del territorio, presidio. Alcune regole storiche che il corpo ha non sono adeguate a questa finalità. Ci sono regole pensate e immaginate in tempi passati, quando il corpo aveva numeri diversi, un'età media diversa. Oggi c'è esigenza di recuperare agenti in strada togliendoli dagli uffici e quindi abbiamo previsto una serie di misure che prevedono questo risultato. Cosa che ovviamente non ha fatto contento qualche sigla sindacale e qualche agente. Lo abbiamo inserito all'interno di un piano più ampio, in una visione per la città. Più assunzioni, stiamo assumendo 52 agenti di polizia municipale, un grande intervento assunzionale per portare i giovani in servizio. Abbiamo investito sui mezzi, 1 milione sulle autovetture, 49 autovetture in città, e avevamo dato disponibilità al raggiungimento di un accordo, che è materia di accordo sindacale, su aumenti per gli agenti che stanno in strada e fanno lavoro gravoso. Sì. Rompendo il tavolo delle trattative, evidentemente l'unico risultato che i sindacati ottengono è che vanno avanti le azioni previste dall'amministrazione sulle assunzioni, sui mezzi. Giarassi, io la metto molto brutale. Voi gli avete detto lavorate di più e in cambio vi diamo più soldi. Loro hanno detto scioperiamo e voi avete detto i soldi in più non ve li diamo. Scioperando ottengono che lavoreranno di più e resteranno gli attuali livelli salariali. Sì, è l'esito scontato di una protesta che non ha senso. Gli aumenti salariali sono previsti nel contratto decentrato, per fare il contratto serve l'accordo, e quindi abbiamo detto loro questo sciopero fa male soltanto agli agenti e alla città. Abbandonate l'agitazione, lavoriamo insieme, c'è bisogno di lavorare per Firenze e per i fiorentini, e gli agenti che svolgono lavoro in strada faticoso e importante è giusto che siano retribuiti di più. Finiamola con le contrapposizioni e lavoriamo per il bene della città. Questo è il messaggio del sindaco, lo condivido fortemente e lo continuiamo a ripetere. Grazie Giarassi, le auguro buona giornata, buon lavoro, assessore organizzazione personale, sicurezza urbana e polizia municipale del comune di Firenze. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede in borsa e poi ritorniamo a parlare di quello che è successo a Roma tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Il caos in Campidoglio dopo le perquisizioni, l'arresto per corruzione di Marra, considerato fedelissimo del sindaco Virginia Raggi, che ha appena parlato, come avete sentito, ha detto lo sostituiremo e la giunta andrà avanti. Intanto a Milano Sala si autosospende da sindaco, è indagato come ex commissario di Expo per la retrodatazione di un documento, fiducia dal Partito Democratico. Sospesa l'evacuazione di Aleppo, sostiene Al Jazeera, ma i russi smentiscono tutto questo dopo che un convoglio di civili in fuga è stato attaccato dai ribelli. Rischio che Idlib faccia la stessa fine della città, dice De Mistura, inviato speciale dell'ONU. Monte dei Paschi parte l'ultimo tentativo per l'aumento di capitale da 5 miliardi approvato ieri, tempo fino a giovedì. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Periodo di shopping natalizio, ma è anche un periodo, come sapete, soprattutto nella pianura padana, e lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi, soprattutto Veneto, Piemonte, Lombardia hanno un problema di inquinamento. I PM10, le famose polveri sottili che sono salite sopra i 50 microgrammi, che indica la soglia oltre la quale poi scattano delle multe. E tra i vari provvedimenti che sono stati presi ci sono stati ovviamente dei blocchi del traffico, soprattutto per quanto riguarda i diesel, ma anche altri provvedimenti come quelli presi dal comune di Vicenza, che si è scagliato duramente contro le porte aperte dei negozi. I negozi tengono le porte aperte, quindi i riscaldamenti vanno a bomba, si contribuisce all'inquinamento e sono scattate anche le prime multe. Ernesto Boschiero è il direttore di Confcommercio appunto di Vicenza, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Allora Boschiero, vi stanno picchiando, vi stanno menando con le multe? Ma diciamo che il comune debba intervenire quando si superano le soglie di guardia di PM10 è indubbio e doveroso. È stato fatto un provvedimento di divieto di utilizzo in tutto il territorio comunale di dispositivi dei dispositivi in sostanza che ai fini di favorire l'ingresso al pubblico consentono di mantenere aperti gli accessi verso i locali interni agli edifici. Cioè, cosa vuol dire? In sostanza che il comune vieta l'apertura delle porte, le porte sempre aperte in questi esercizi di categoria E5. E all'interno di questa categoria non ci sono solo i negozi, ma indistintamente tutti quelli che hanno un locale a uso commerciale. Quindi, ad esempio, tutto il settore del commercio all'ingrosso, che ovviamente non sta ricevendo visite di vigili piuttosto che qualcos'altro, avrebbero l'obbligo di chiudere le porte dei magazzini. Lei si pensi che, per esempio, questi è praticamente impossibile, appunto, perché caricano e scaricano continuamente. Esatto. Quindi noi abbiamo scritto all'amministrazione comunale dicendo che c'è una sproporzione tra i limiti imposti e la sostanziale marginalità degli effetti facilmente attesi dal provvedimento, cioè perché sicuramente i negozi, la stragrande maggioranza di quelli che tengono le porte aperte, hanno quelle famose barre, chiamiamole così, ferma caldo o ferma freddo a seconda della stagione, sì, che impediscono diciamo così l'entrata di aria fredda piuttosto che di aria calda. Sì. Questi sono dei dispositivi specifici che vengono utilizzati quando si aprono le porte. È evidente che per cercare di agevolare il flusso di clientela, i negozi cosa fanno? Semplicemente tengono aperte queste negozi. Soprattutto lei dice siamo sotto Natale, insomma, teniamo aperte le porte, facciamo sentire un po' di musica, attiriamo i clienti. No? E questo è un aspetto. Secondo aspetto, ci sono numerosi negozi. Mi scusi Boschiero, ma le multe sono già arrivate, mi sembra di aver capito qualche vostro associato. Hanno fatto la sanzione, sappiamo, sì, che ha fatto la sanzione, però ovviamente la notifica, c'è un tempo che intercorre da quando viene steso il verbale a quando viene notificato. Sì. Non mi risulta che siano stati notificati, però i verbali sono stati. Vabbè, arriveranno. A quelli che si dice, sì, arriveranno. Sì. Questo è un aspetto. C'è da dire ulteriormente che molte di queste attività non hanno nemmeno la caldaia, cioè vuol dire che non hanno un camino, cioè non hanno un dispositivo di combustione per il riscaldamento, hanno semplicemente delle pompe termiche, cioè in sostanza il condizionatore che d'estate fa fresco, sì, d'inverno fa un po' di caldo, o addirittura in alcuni non è nemmeno acceso questo dispositivo, perché gli stessi faretti che vanno a illuminare, diciamo così, molto bene i locali, le vetrine, scaldano abbastanza, dice lei. Vabbè. Allora, e che cosa chiedete al comune? Di ritirare questo provvedimento, in sostanza? Noi abbiamo chiesto che ritiri il provvedimento, ovviamente siamo disponibili a sederci attorno a un tavolo a discutere e far capire anche le nostre ragioni, perché generalizzare un disposto di questo tipo no, sicuramente non va bene. Ma ci sono dei conti, Boschiero? Cioè, noi sappiamo quanto PM10 in meno c'è per ogni negozio che tiene chiusa la porta? Assolutamente no, e sarà anche impossibile, penso, da misurare questo tipo di differenziale. A nostro avviso, cioè, le ragioni, le motivazioni per le quali abbiamo scritto ci sono e sono fondate, perché non si può generalizzare un provvedimento e dire ma copiamo questa categoria piuttosto che l'altra, anche perché visto i tempi, vista la crisi economica, vista tutta una serie di altre considerazioni, visto l'inquinamento che di fatto non fanno, mi sembra veramente assurdo un provvedimento di questo tipo, insomma. Grazie Ernesto Boschiero, direttore di Confcommercio Vicenza, buona giornata, grazie, buon lavoro. Grazie a voi e buona giornata, grazie. E dunque, così quello che succede a Vicenza, l'ultima tappa del nostro giro per l'Italia, perché a chiudere oggi invece andiamo, abbiamo lasciato in sospeso l'analisi del venerdì del nostro Daniele Biacchesi e poi una bella intervista realizzata dalla nostra Katia Caramelli in occasione degli 80 anni del Papa. Iniziamo dall'analisi di Daniele Biacchesi, che ci parla della corruzione a Roma. A Roma la corruzione ha ormai travolto tutto e ha avvolto come un tentacolo spaventoso il Campidoglio. Non sembrano esserci più zone franche. La macchina del comune è stata oggi colpita dall'arresto di Raffaele Marra, potentissimo capo dell'ufficio del personale del Campidoglio, in manette con l'accusa di corruzione insieme all'immobiliarista e costruttore Sergio Scalpellini. L'inchiesta è quella sulla compravendita delle case Enas Arco e dimostra la perfezione di un sistema radicato da ormai troppo tempo. La corsa di Marra pare dunque terminata, ma la sua ramificazione di tipo corruttivo ha certamente coinvolto la giunta Raggi, perché Marra è fidelissimo della sindaca Virginia Raggi, ex vice capo di gabinetto del Campidoglio e ora alla guida del dipartimento personale. Ma il ruolo di Marra è solo uno degli snodi della corruzione nel Campidoglio. L'appalto è quello destinato alla realizzazione della rotatoria Cassia-Giustiniana. I costi di questo appalto del quindicesimo municipio ammontavano alla cifra originaria di 280.000 euro. In poco tempo e senza giustificazioni l'appalto lievita fino a 717.000 euro, importo tre volte maggiore. La nuova verifica dell'ANAC di Cantone punta a stabilire come mai il Campidoglio non abbia riscontrato per tempo lo scarso livello di progettazione dell'opera stessa e sia dovuto poi ricorrere ad un sostanziale raddoppio dei costi. Per chiudere parliamo del Papa, che compirà 80 anni domani. Nonostante questo, l'immagine che di lui ci arriva dai più stretti collaboratori è quella di un uomo pieno di energia a cui non manca l'ironia. Katia Caramelli ne ha parlato con il portavoce del Papa, Greg Burke. Il Papa ha una giornata, diciamo, che inizia molto presto con la preghiera, poi la messa, una messa normalmente semi-privata, diciamo, che piccoli gruppi, poi comincia a lavorare e a vedere l'udienza, diciamo, ufficiale, normalmente la mattina, poi nel pomeriggio avrà un piccolo riposo e poi nel pomeriggio normalmente sono incontri un po' più privati, va a letto presto, però si alza molto presto. Però ha confessato recentemente che dorme come un sasso. Dorme come un sasso, infatti devo dire che questa è una delle cose, che lui ha una pace che trovo molto interessante, perché se uno pensa di tutti i problemi che devono passare lui, e poi problemi, difficoltà e poi anche le sofferenze della gente, no? Che la gente vogliono condividere con il Papa, che vogliono le preghiere del Papa, però vede in tutto questo la volontà di Dio, vede la provvidenza, e proprio anche per questo lui ha detto uno dei motivi, che una delle cose che aiuta è la preghiera. Quali sono secondo te, proprio sul piano umano, le sue migliori qualità? Io credo che due cose che mi colpiscono, uno la serenità, l'altro è la gioia, che lui ha anche parlato di questo, che fa questo preghiera, che ha sempre il buon umore, però non è buon umore di uno che scherza, lui è capace di scherzare e lo fa, sorride spesso, però credo che la gioia sia una cosa un po' più profonda. Adesso il traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.